io non ne posso più, son disperato, Rosina più non trovo, ho creduto chiamarla col mio canto, e non la vedo ancora, vado di trotto. Dove? Dove Villotto? Rosina ritrovata. Senti, a momenti qui giungerà, a lei con grazie vezzo presentarti a lei, spiegar tutto l'ardor. Oh bravo, ella qui viene. Ah, cara bel contento, mi treme le ginocchia, più non posso parlare. Così tu perdi, su via, coraggio! Parla, spiega gli affetti tuoi. Che dico? Orbene, ritirati in disparte, alla tua amata io parlerò per te. Bella pensata! Vieni, Rosina, appunto giro in traccia di te. Per tu mi dirvi come pronta. Sappi che un cavalier son io, e non son uso a soffrir negative. Ho molto male, incomincia la cosa. Si contenta la sposa? È troppa fretta. Conosco il vostro Roberto. Orbene, ascolta, ne giova questa volta tu pretesti. Io voglio, e non ti parlo in vano. Posso darle la mano? M'hai seccato. Io voglio in quest'istante che tu sposi Villotto. Eccomi pronto. Indietro, temerario importuno. E voi, signor, pensate che ho abbastanza coraggio da farmi rispettar? Che modo è questo? Qual ragione? Qual diritto avete voi sulla mia libertà? Un cavalier non siete. Ohimè, questo rimprovero mi ha più vivo del cuore appena tra mi arriva. Brava sorella, evviva! Viva la sposa, il caro mio cognato, vogliamcio la sposa. Viva il maiallo! Cattera, questa è cosa da farmi dar di volta. Quello là mi minaccia, questa piange e sospira, e quest'altro delira. Tutti fanno schiamazzo, non si può più soffrire. È pazzo! A me pazzo, cospetto, voglio farti vedere con una prova piena che tu sei un gran matto da catena.